L'altro giorno qua in giardino io giocavo come un pazzo. Non pensavo che quest'oggi con i giardinieri mi venisse il desiderio di salir su un ramo. Guarda quante foglie tutte intorno, se le vedo già mi sento là. E come uno scoiattolo saltello, non così veloce ma io canto. Questa melodia mi prende tanto, e sul ramo suona ancor di più. Non è un sogno, glielo chiedo, senti amico, mi accompagni. Sì, lo so, stai lavorando, dai ti prego fallo. La mia mamma è lì vicino, lui la guarda e lei sorride. Lui mi dice, corri bello, giocherai su un ramo. Guarda quante foglie tutte intorno, se le vedo già mi sento là. E come uno scoiattolo saltello, non così veloce ma io canto. Questa melodia mi prende tanto, e su un ramo suona ancor di più. Guarda quanto spazio tutto intorno, come son contento, vedo il mondo, c'è anche una lucertola su un ramo.